Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma. Un altro modo è quello del online, basta andare sul sito della radio ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema, quello di Visionari, il giovedì, e per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi potete controllare sul sito internet della radio alla voce trasmissioni Visionari oppure sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per quanto riguarda la scaletta, avremo diversi ospiti quest'oggi tra film e documentari in uscita oggi a un festival che si chiama Arcipelago, e poi documentari che invece hanno girato e stanno girando per alcuni festival, poi My Movies per una rassegna sui Dardenne, film restaurati come prodotti restaurati dalla Cineteca di Bologna, è la volta questa settimana di Gioventù Bruciata, se non sbaglio inizio settimana prossima, e poi troverete le uscite in sala di giovedì, oggi giovedì 6 novembre, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. Cominciamo con il parlare di un documentario. Si parla in genere, quando succede qualcosa legata alla cronaca nera nelle città, di degrado urbano. Parliamo invece di un esempio che tocca la provincia e tocca un centro abitato in cui i cittadini dal basso si sono mobilitati ed hanno creato uno spazio di convivenza, di tolleranza, e facendo le cose insieme e riqualificando un'intera zona. Ne parliamo con Stefania Amanti, co-regista del documentario Forum Living. Ci sei, Stefania? Sì, ciao. Ciao, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, ho visto il documentario quest'anno, quest'estate al Clorofilla Film Festival, e raccontacelo un po' in breve. Sì, allora, Forum Living parla appunto, come hai detto, di un centro storico, che è il centro storico della nostra città, che è Forlì, e prende ad esempio una via, che è via Giorgio Regnoli, che è un po', diciamo, il crocevia di quelle che sono state le problematiche dei centri storici degli ultimi anni, insomma, negli ultimi anni, e invece un tentativo di riqualificazione partita appunto dal basso e dai cittadini, da chi vive nella via e anche da chi esercita la propria professione. È un'idea che è nata diciamo in realtà da un finanziamento pubblico, da un corso finanziato dall'ANCI che prevedeva la formazione diciamo di giovani creativi nell'ambito dell'audiovisivo. Abbiamo formato un'associazione che si chiama Sovraesposti alla fine di questo corso, e la nostra prima opera è proprio questa. Abbiamo deciso di farlo perché ci sembrava un esempio bellissimo e perché è una storia, insomma, degna di essere raccontata in qualche modo. Sì, due punti sono quelli qualificanti per quello che ho avuto modo di vedere: l'arte e la cultura, e dall'altro la convivenza pacifica e anzi molto creativa, molto, no? Sì. Beh, innanzitutto l'arte è stata utilizzata diciamo per innescare delle dinamiche sociali. È dal di lì che è partito tutto, quindi l'arte come aggregazione, come condividere, quindi questo aspetto sicuramente. E l'altra cosa dicevi, scusami? Sì, la convivenza fra le persone. Beh, infatti diciamo che una delle problematiche maggiori che era sentita nel nostro centro storico, come credo nei centri storici di molte città, è la convivenza col grande numero, no, di persone straniere che sono arrivate nella nostra terra. E un punto infatti importante del documentario è quello che parla dell'integrazione e diciamo non la vede come qualcosa di possibile in un arco breve di tempo, e invece è possibile l'interazione. Quindi siamo partiti proprio da questo principio, le persone che abitano quella strada sono partite da questo, cioè cerchiamo di collaborare con le persone che sono diverse diciamo da noi, cerchiamo di fare cose insieme e poi pian piano, no, l'integrazione in qualche modo arriverà da sola. Senti, come hanno contribuito i cittadini a questo lavoro? Allora, è stato, dunque, all'inizio in realtà io personalmente ero al di fuori di questa storia, nel senso che conoscevo quello che era successo, però l'idea originale del film non era la mia. Quindi quando mi sono avvicinata a queste persone, no, che non conoscevo fondamentalmente, è stato bellissimo vedere il loro entusiasmo, nel senso che erano veramente contenti di poter raccontare quello che stava succedendo loro, no? Un po' si era creata veramente una sorta di comunità nella strada, no? Avevano ritrovato quella voglia di stare insieme fra le persone, e quindi è stato molto bello. Siamo entrati un po' in punta di piedi nelle loro vite, perché comunque è così, è un documentario, quindi stiamo raccontando qualcosa di reale, e ci ha contagiato il loro, sì, assolutamente, il loro entusiasmo e la loro voglia di fare. Siamo veramente rimasti coinvolti dalla storia che volevamo raccontare, ecco. Ecco, dicevi di un punto di ritrovo, dell'importanza, perché una delle carenze poi alla fine, che riguarda non solo le metropoli ma anche le città di provincia, i centri di provincia, è quello della socialità. Sì, assolutamente. Diciamo che nella storia di questo documentario in particolare, per esempio, sono nate tutta una serie di eventi, no? Di attività che sono state create dalle persone che abitavano nella strada. Però finiti questi eventi hanno avuto, per esempio, la fortuna, c'era un negozio sfitto e il proprietario del negozio ha deciso di lasciarlo, insomma, finché non veniva affittato in maniera gratuita, alle persone che volevano continuare a organizzare degli eventi. Quindi si è creato una sorta di spazio comune all'interno di una strada in cui le persone potevano incontrarsi, confrontarsi, parlare. Credo quindi che ci sia anche bisogno, no, di questi ambienti in qualche modo. Poi, per quanto riguarda i nuovi residenti, i migranti, io prima ho usato un termine che neanche mi piace, quello di tolleranza. In realtà si è trattato di interazione, di scambio, che ha portato poi anche a cementare i rapporti tra le persone, a conoscersi poi alla fine. Certo, sì, assolutamente, assolutamente così. Nel senso che veramente quando entri in una strada che è piena di persone diverse, c'è sempre un po' questo senso di diffidenza, no? Però quando li conosci e vai lì a mangiare il kebab e chiacchieri e poi li saluti per strada, si crea un clima ovviamente diverso. E questo è veramente, ora è ovvio che Forlì è comunque un centro medio piccolo, quindi è stato, diciamo, che quello che è successo anche per tutta una serie di condizioni, no, particolari, favorevoli che c'erano. Però credo che l'esempio del film possa essere trasportabile anche su una realtà più grande, ecco, questo senso comunque di trovarsi con le persone, di comunicare. Sì, sì, sì. Senti, che ne è di quella strada? Continuano le attività, si stanno trasformando, l'azione che c'è stata si sta trasformando in qualcos'altro? Allora, diciamo che l'associazione, appunto, Regnoli 41, che è quella che è nata, no, che è nata dai cittadini e dai residenti della strada, c'è ancora, sta facendo delle attività tuttora, però sono anche nate incredibilmente tante altre piccole realtà, nel senso che poi nella strada è nato un locale che fa eventi culturali di un certo tipo, poi ci sono tante altre associazioni che si sono mosse, si sono unite. Un positivo effetto valanga, insomma. Sì, esattamente, esattamente, fra cui appunto la nostra, i Sovraesposti, e quindi questo è molto bello, perché c'è stata proprio un'esplosione. Forse in realtà c'era l'esigenza, solo che non sapevamo come trovarci fra di noi, no? Sì, sì, sì, tante sì. Persone che volevano fare queste cose, ma non avevamo la catena, insomma, e adesso questo legame si sta creando. Senti, progetti prossimi, già se ne può parlare di qualcosa in cantiere? Allora, sì, come associazione Sovraesposti abbiamo un progetto adesso in cantiere, siamo stati quest'estate nei Balcani a seguire un'orchestra, gli Spartiti per Scuteri, che fanno appunto musica balcanica, e abbiamo documentato questo viaggio, insomma, alla ricerca delle origini della musica che suonano. E siamo in post-produzione, poi vedremo, insomma. Quindi sempre comunque un impatto sociale, perché siamo stati in Kosovo, che comunque è un paese che ha vissuto recentemente una situazione molto forte, e quindi poi, insomma, speriamo in altri progetti futuri, vedremo. Ecco. Bene. Senti, qualche informazione per Forum Living, dove si possono avere? Allora, dunque, noi abbiamo, come associazione Sovraesposti, abbiamo sia una pagina Facebook che un sito internet, quindi basta, adesso non mi ricordo esattamente il sito, ma basta digitare Associazione Sovraesposti. E in secondo luogo abbiamo, tra l'altro, prevista una ulteriore proiezione di Forum Living il 19 a Forlì, al Cinema San Luigi. Benissimo. Quindi per chi volesse venire a vederlo, i riferimenti li abbiamo. Ok. Stefania, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Va bene, grazie a te allora. Arrivederci. Ciao. Stefania Mantico, regista del documentario Forum Living. Continuiamo con i documentari. Tommaso Mannoni, co-regista del documentario Fino in Fondo. Tommaso, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a te, ciao a tutti gli spettatori. Tra l'altro, io quest'estate sono stato anche nella zona delle miniere sarde e in questo periodo abbiamo parlato in trasmissione, occupandoci in particolare di documentari, di diversi lavori che hanno seguito le vicende legate alle chiusure e ai licenziamenti. E Tommaso, raccontaci un po' di questa storia di Fino in Fondo. Sì, ti ringrazio per l'opportunità innanzitutto. Abbiamo fatto questo lavoro seguendo le vicende negli ultimi 2 anni. Abbiamo concluso il film proprio a fine luglio, con post-produzione, eccetera. E ti dico questo, che siamo stati, quando abbiamo iniziato a seguire le loro vertenze, questa fabbrica di alluminio che si chiama Alcoa, questa, diciamo, multinazionale americana che è una delle ultime, negli ultimi 10 anni, che è arrivata lì, che ha comprato un'azienda che era a partecipazione statale, l'ha comprata, l'ha privatizzata e poi adesso va via, lasciando oltre 2000 operai a casa. E lì abbiamo iniziato a seguirli perché vedevamo che in loro sono operai che vanno dai 60 ai 30 anni, cioè sì. Ci sono tutto il panorama diciamo cronologico di un qualsiasi posto di lavoro. Loro, malgrado la loro enorme e dura esasperazione della lotta che portavano avanti, mantenevano una dignità molto forte. Questo l'abbiamo scoperto pian piano, seguendoli nelle loro iniziative, nelle loro manifestazioni, alcune molto anche particolarmente forti. Ma la cosa più grossa è stata il fatto di essere stati investiti, siamo stati in due a realizzare questo lavoro, sia come operatori, sia come registi, sia come sceneggiatori e poi anche come montatori. E quello che notava, quello che ci ha investito è la loro profondità d'animo, sì. La loro dignità, la loro identità, che non gli deriva solo dal fatto che loro sono esseri speciali perché lo sono, eccetera, ma probabilmente perché sentono da 2 generazioni, cioè dai loro nonni e dai loro padri, sentono questo peso e questa importanza, perché i loro nonni erano i minatori che hanno lottato e lasciato anche la vita per le chiusure delle miniere, per lo sfruttamento. Sì. Ecco, dicevamo all'inizio delle miniere, c'è stata anche una grossa vertenza dei pastori e adesso parliamo, insomma, delle grosse fabbriche. In Sardegna un grosso problema, non solo, insomma, però riguarda tutta l'Italia, però mi sembra che in Sardegna il problema lavoro sia molto acceso, grosse vertenze, e volevo chiederti quali sono le prospettive oggi, soprattutto per i giovani. Ma guarda, in questa situazione è una situazione come se fossimo dentro un libro di Dino Buzzati, il libro dei tardi, non il deserto dei tardi, cioè c'è la totale attesa, l'incertezza, i tardi non arriveranno, è una fortezza Bastiani in cui si attende qualcosa, non arriva mai nessuno, ci sono delle passerelle di politici, politici nazionali, poi anche regionali, che ogni tanto vanno, no, nelle zone, diciamo, periferiche dell'isola, tipo quella del Sulcis di cui stiamo trattando adesso nel documentario, o altre, in cui fanno un po' di passerelle il fine settimana, preferibilmente così, ma anche durante la settimana non si pongono problemi, ma poi non vi è niente di fatto, cioè sono proprio dei defilé, di solito a livello regionale lo fanno i politici regionali, lo fanno senza occasioni particolari, quelli nazionali lo fanno poco prima delle elezioni e basta, cioè, per cui c'è questa sensazione di attesa e pian piano i giovani, quelli che sono più giovani, pian piano riniziano, ed è molto forte negli ultimi 5 anni, il flusso migratorio, cioè stanno tutti spostandosi, andando a cercare fortuna altrove, c'è una grandissima emigrazione, sì, dalla Sardegna. Sì, sì, sì. Ecco. E quindi questo qua forse è una piaga, perché poi anche per gli stessi operatori economici sarà un grave problema, perché non compreranno case, non pagheranno bollette, non consumeranno, saranno tutti fuori. Sì, quindi, sì. Quindi una massiccia migrazione per quanto riguarda la Sardegna, insomma. Sì, è un fenomeno molto che si è rigonfiato negli ultimi anni e che sta portando a numeri, io questi non li ho stabiliti, ne ho sentito parlare da alcuni esperti, a numeri quasi di una popolazione in via di estinzione, cioè poi magari ancora non è registrato da un punto di vista tecnico-burocratico, perché molti vanno fuori in Germania, in Spagna, in Francia, oppure in Nord Europa, eccetera, e tengono la residenza in Sardegna. Ok, quindi da un punto di vista burocratico non è registrata questa. Però materialmente non ci sono, insomma. Però non ci sono. Cioè, sì. Io stesso vivo a Roma e non ho la residenza a Cagliari. Sì, cioè, e anche l'altro corregista, Alberto. Sì. Cioè, viviamo a Roma in affitto e abbiamo tutte e due la residenza in Sardegna. Quindi da una parte il problema del lavoro e del reddito, dall'altra volevo chiederti, rispetto alla chiusura delle miniere, delle fabbriche, delle industrie, il problema della riconversione anche legata all'inquinamento del suolo, se ci sono spiragli in questo senso. Nel documentario abbiamo aperto una serie di temi, anche se poi ci siamo focalizzati su uno, cioè principalmente sul disagio della precarietà, non tanto la precarietà, ma il disagio della precarietà, cosa è dal punto di vista interiore, identitario, eccetera. E gli altri temi sono, per esempio, uno dei più grossi, importanti, è quello dell'inquinamento, che possono lasciare delle industrie pesanti che lavorano dei materiali e li trasformano in altri materiali, cioè dalla bauxite si fa l'alluminio. Pertanto c'è un inquinamento bello importante in territori che invece avrebbero in teoria altre specificità e altre vocazioni. Quindi questo discorso ancora non è al vaglio di nessuna commissione, di nessun ente, eccetera. C'è, la si tollera perché adesso c'è un'emergenza primaria, cioè quella di dare del reddito, perché c'è veramente un livello di povertà davvero, insomma, molto molto importante, per cui non è stato ancora valutato. Cioè, anche se c'è un vento nuovo, un venticello, diciamo, nuovo, c'è una giunta nuova che ha appena vinto le elezioni verso aprile-marzo, però insomma niente di cioè, rispetto a quella precedente che era proprio vabbè totalmente asservita agli ex governatori di Roma, adesso questa qua è asservita al nuovo governatore italiano, per cui è cambiato proprio un pochissimo, ecco. Sì. Senti Tommaso, avete fatto un percorso festivaliero, voglio chiederti fino in fondo quando e dove si potrà vedere, se c'è anche un sito internet con un calendario di proiezioni. Ma guarda, abbiamo una pagina Facebook che si chiama proprio Fino in Fondo Doc, quindi sì. Fino in Fondo Documentario, dove c'è un teaser eccetera. Abbiamo appena finito il montaggio e l'abbiamo presentato solo in pochissimi festival, uno tra questi a Roma, a Overlook, e ci hanno segnalato con una informativa ancora privata, quindi ancora, però io posso dirlo, che siamo stati selezionati, quindi lo si vedrà anche a Roma in questo festival Cinema Avvenire, Overlook eccetera. Ancora non sappiamo i giorni della proiezione, ma siamo stati selezionati e questo ci sta dando anche la possibilità a questi festival di distribuirlo, di farlo vedere eccetera. Adesso lo porteremo anche in altri festival, però sono tutti festival così indipendenti, anche se il Milano Film Festival ci ha regalato questa possibilità di essere selezionati come unico film italiano. Sì. Eravamo a fianco a dei premi Sundance, produzioni canadesi, israeliane da 300.000 euro, noi l'abbiamo fatto con le nostre telecamerine. Sì, insomma, un grande punto di orgoglio l'abbiamo avuta anche in quel momento. Tommaso, allora i riferimenti in rete ce li hai dati, io ti abbraccio, spero di risentirti presto. Grazie a te, grazie a voi, niente, speriamo presto anche noi. Ok. Grazie. Ciao. Tommaso Mannoni, co-regista del documentario Fino in Fondo. E ritroviamo Giancarlo Zappoli, direttore di My Movies, per parlare della rassegna in streaming Alla scoperta dei Dardenne dal 7 al 12 novembre. Giancarlo, ben ritrovato. Ben ritrovato a te. Allora, raccontaci un po' di questa rassegna, tra l'altro gratuita, dei Dardenne con 6 titoli. Esatto, cioè l'intera filmografia, che è un caso più unico che raro di riuscire a rivedere in ordine cronologico l'intera filmografia di un autore, in questo caso di una coppia di autori. Viene fatta in occasione dell'uscita dell'ultimo loro film, che è Due giorni e una notte, del quale ogni sera verrà mostrata una clip, e l'ultima sera verranno mostrati i primi 5 minuti d'inizio, che sono poi di solito fondamentali nel cinema dei Dardenne. Per cui credo che sia un'occasione più unica che rara, sia per chi vuole ripassare e chi invece magari, soprattutto forse fra i più giovani, chi vuole conoscerli. Come mai questa attenzione proprio ai Dardenne, Giancarlo? Ma perché i Dardenne sono secondo me dei registi estremamente particolari, che hanno saputo passare dal documentario, attività in cui si sono cimentati per una ventina d'anni, al cinema di finzione senza mai dimenticare l'umanità, cioè avendo sempre presente che stavano parlando di storie che non dovevano commuovere per il gusto di commuovere come altri fanno, ma dovevano far percepire qualcosa alle persone. Ti faccio un esempio, se permetti. Rosetta, il loro secondo film, che vince la Palma d'Oro a Cannes, che passa per ultimo in concorso. Sì. Io ero alla conferenza stampa, ti garantisco che eravamo in 4 gatti, erano andati tutti via. Però poi ha vinto la Palma d'Oro. Bene, film che parlava del bisogno di dignità di una ragazza che solo nel lavoro si sente riconosciuta e quel lavoro non riesce mai a tenerlo. Bene, in Belgio venne approvata, a seguito di questo film, una legge sul lavoro giovanile, contro la disoccupazione giovanile, e venne chiamata Loi Rosetta. Pensa agli effetti che un film può avere, insomma. Che un film può avere quando incide sul corpo vivo di una realtà. Sì. Senti, potrei dire anche di più, se permetti. Come no, certo. Io ho avuto, per un festival che dirigo, come ospite il ragazzo che era attore alla prima esperienza, protagonista di Il figlio. Il figlio è una storia che, in estrema sintesi, vede un padre a cui è stato ammazzato il proprio bambino piccolo da un undicenne nel corso di un tentativo di furto. Questo finisce dentro, dopo qualche anno però viene rilasciato, e finisce in un centro di formazione professionale per la rieducazione, dove lui, falegname, è insegnante. Il ragazzo non sa che lui è il padre di quello che ha ammazzato, mentre lui invece ne è perfettamente consapevole, e se lo fa assegnare nella propria classe, e tu spettatore cominci a pensare vendetta. Non è così, c'è questo senso, c'è questo desiderio iniziale, ma poi non è così. Ma quello che volevo dire è che il ragazzo protagonista che io ho avuto come ospite, un ragazzo molto chiuso, molto riservato, mi ha raccontato come è stato il primo giorno sul set. Mi ha detto: sa, Olivier Gourmet, che è l'attore feticcio e che lì interpretava il padre, il falegname, il primo giorno quando siamo stati in lavorazione mi ha dato la mano al mattino e mi ha detto: buongiorno, questa sarà l'unica cosa che ti dirò al di fuori delle battute del film, fino a stasera quando ti dirò buonasera, a domani. Sembra la cosa più fredda, più distaccata, più brutta da dire a un giovane ragazzo che ha la prima esperienza. In realtà cosa voleva fare Gourmet? Voleva mantenere quella distanza, perché se fossero diventati amici il film ne avrebbe risentito. Certo. Senti Giancarlo, volevo chiederti un'altra curiosità legata alla vostra sala virtuale. Come sta andando, visto che ne abbiamo parlato in più occasioni? Ma guarda, sta andando decisamente bene, ma da più punti di vista, nel senso, vabbè, il primo e più evidente sono gli afflussi, quelli che chiedono appunto, che si prenotano, basta andare a osservare ogni tanto i sold out che ci sono e si capisce immediatamente. Ma la cosa che secondo me è ancora più interessante è il livello poi di comunicazione, cioè al cinema poi si entra e si esce, e arrivederci, sì, qualche volta ci si va anche in gruppo, d'accordo. Qui in realtà un mezzo che a volte si dice freddo, crea delle finzioni, eccetera, in realtà in questa sala virtuale la gente si conosce, perché tu puoi dire che ci sei, io posso dire che ci sono, e possiamo vedere chi sono gli abituè e alla fine scambiarci delle opinioni, e per cui creare una rete di anche di nuovi critici, perché no? Che intervengono sul film a volte a botta calda, a volte magari prendendosi la possibilità di ritornarci dopo. Bene, senti, altre cose in cantiere per quanto riguarda questo scorcio di stagione? Allora, dei progetti futuri non si raccontano in anticipo, perché sennò non fanno sorpresa. Perché sennò che gusto c'è? Beh, hai visto di sicuro che usciamo anche con una serata di streaming su Altman, sì. Perché si pronuncia Altman anche se tutti dicono Altman, che è il documentario che My Movies ha distribuito nelle sale, partendo dalla proiezione a Venezia con presente la moglie. E lo dico con presente la moglie non perché è un fatto così, cioè, vabbè, c'era il personaggio ad accompagnare, ma perché questo è un documentario classico, perché ripercorre in ordine cronologico la vita del regista, ma particolare perché, essendo stata coinvolta la moglie nella produzione, ci sono un sacco di materiali che altrimenti non sarebbero stati disponibili, sarebbero rimasti privati. E poi l'idea divertente è una suddivisione in capitoli creata da attori che hanno lavorato con lui, da Robin Williams a Bruce Willis eccetera, a Elliot Gould, ai quali viene detto: dimmi che cosa vuol dire secondo te almaniano, e ognuno la racconta a modo suo. Chiudiamo Giancarlo ricordando questa rassegna sui Dardenne e anche le modalità, quali sono? Sì, allora si parte da domani sera su My Movies Live. Tutti gli utenti, sia free che unlimited, si collegano alla pagina My Movies Live It /live/Dardenne e prenotano il posto. Questo è quanto. E quando? E poi ogni sera avranno il loro film alle 21:30. Alle 21:30, ecco, questo è l'orario, ecco. lo diamo. Esatto. Giancarlo, io ti ringrazio, un abbraccio. Grazie e alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao, buon ciao, lavoro. Ciao. Giancarlo Zappoli, direttore di My Movies, sulla rassegna in streaming alla scoperta dei Dardenne dal 7 al 12 novembre. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Allora, al volo perché sta scaricandosi il telefono, Stefano Martina, direttore di Arcipelago 2.2, festival di cortometraggi e nuove immagini, quest'anno all'Ambra Garbatella e al Teatro Palladium qui a Roma, dal 7 all'11 novembre. Stefano, ben ritrovato. Anche per voi è un piacere risentirvi anche quest'anno. Allora, raccontaci un po' le caratteristiche del, in generale, di Arcipelago, e poi cosa ci presenta questa edizione. Beh, quest'anno è un'edizione un po', come dire, fuori norma, chiamiamola così, nel senso che stiamo provando a cambiare formula, ad ampliare il nostro spazio di intervento. Quest'anno abbiamo aperto anche ad alcuni lungometraggi, pensate un po', ma soprattutto anche a degli incontri e delle anticipazioni, work in progress di lavori o ancora non usciti, anche lungometraggi, o addirittura in corso di realizzazione con delle anticipazioni, delle sequenze. Quindi diciamo che, essendo noi stessi un festival in progress, ci sembrava anche naturale in qualche modo rivolgerci a chi sta lavorando ancora su dei progetti, magari sta anche cercando dei finanziamenti, sì, magari tramite il crowdfunding o altre forme di autofinanziamento. Per cui ci sembrava opportuno in qualche modo anche affiancarli nel nostro piccolo, in questo lavoro delicato, in questo momento delicato dell'evoluzione di un progetto. Diciamo che non sono le sole novità, quest'anno abbiamo anche dei reading che accompagneranno il concorso internazionale, che è stato suddiviso in 4 temi, e ogni tema avrà appunto un ospite che leggerà un testo molto legato al tema di ciascun programma di corti. Abbiamo Paolo Sassanelli, abbiamo Michele Laic, abbiamo Giuseppe Cederna e abbiamo Regina Orioli, ognuno con il proprio testo da un autore famoso o meno. E celebriamo il 25ennale della caduta del muro di Berlino tra documenti storici, in collaborazione con il Goethe Institute e la street art, che, essendo Berlino in qualche modo la capitale europea della street art, e Garbatella insieme al quartiere Ostiense limitrofo è come dire la zona, il distretto artistico rispetto all'arte urbana di questa nostra città, abbiamo come dire approfittato della celebrazione per creare una sorta di gemellaggio ideale e culturale tra le due capitali. Abbiamo un omaggio a Pippo Del Bono, che sarà presente in carne ed ossa l'8 e il 9 novembre. Presenteremo tutti i suoi film e anche alcuni documentari su di lui, uno in particolare inedito, il francese Pippo Del Bono, Un poète en colère, è un'anteprima italiana. Così come un'anteprima invece internazionale è il lungometraggio romeno, alla Romania dedichiamo un focus piuttosto interessante, in particolare per questo lungometraggio che viene presentato al di fuori dei confini del paese di produzione, appunto della Romania, per la prima volta all'estero. Lunedì 10 ospiteremo appunto Love Bus, 5 storie d'amore da Bucarest. Abbiamo anche un omaggio a Roberto De Francesco, che è anche in giuria con le sue 3 uniche per ora regie, un documentario su Patrizia Cavalli e poi il cortometraggio di fiction L'amico e Pugni nell'aria, che è da tantissimo che non ci vedono, e abbiamo il piacere di riproporli e di avere ospite Roberto al festival, dove appunto anche giurato. Abbiamo Le ragazze del porno proprio in apertura venerdì, domani sera, questo gruppo selvaggio di registe italiane che si vogliono cimentare, si stanno cimentando con un tema ostico, un genere che in Italia ancora non ha diritto di cittadinanza, ma che all'estero ha già avuto esempi anche di un certo successo, e che sarà un momento anche di riflessione, oltre che di sostegno a questo progetto, sul cinema delle donne e soprattutto sull'erotismo rappresentato al cinema da uno sguardo femminile. Sì, sì, sì. Che altro? Abbiamo domani sera sempre la proiezione di Index Zero di Lorenzo Sportiello, che è stato al Festival di Roma nelle scorse settimane con un grande successo sia di pubblico che di critica. Lo riproponiamo noi perché Lorenzo è un regista, oggi è la sua opera prima, che ha già avuto 3 precedenti esperienze d'Arcipelago, sempre in concorso in 3 diverse edizioni. Ci sono anche altre prime, per esempio una che ci sta molto a cuore è quella del, è un'anticipazione in realtà, non proprio un'anteprima, perché il film è ancora in corso di lavorazione ed è quasi ultimato, è l'opera seconda di Rolando Stefanelli, che vinse tanti anni fa, alla fine degli anni 90, con La Matta dei Fiori, che è un po' uno dei film topici della storia di Arcipelago, e lo avremo ospite con alcune sequenze del suo, della sua opera seconda, Souve Noir, che fa seguito dopo ben 15 anni al suo primo lungometraggio Il Prezzo, e sarà presente anche Stefano Dionisi, che è uno degli interpreti del film. Senti Stefano, più o meno quanti sono le opere che presenterete quest'anno? Ma guarda, ti dovessi dire la verità, esattamente non lo so ancora, perché abbiamo avuto anche delle recentissime all'ultimo momento new entries, per esempio i 12 cortometraggi, i 12 episodi delle web series che fanno parte del concorso internazionale per le serie web, che mi hanno un po' scombinato i conti. Comunque diciamo che siamo ben oltre i 100 titoli. Oh, Stefano, dicevi che siete in via di trasformazione, però vista anche la lunga storia di Arcipelago, volevo chiederti, soprattutto per chi ci ascolta, quali erano le caratteristiche di partenza e poi l'evoluzione che ha avuto nel corso del tempo? Beh, diciamo che forse in questi 22 anni l'unica cosa che è rimasta, a parte la curiosità costante, diciamo, delle origini, è il muoverci sempre a 360 gradi. All'inizio lo facevamo solo sui corti italiani, o più in generale sui fuori formato italiani, che fossero documentari, fiction o animazione. Progressivamente ci siamo allargati al panorama internazionale, poi quando ancora non se ne parlava un granché ci siamo iniziati a occuparci di digitale, già alla fine degli anni 90, dopodiché nel 2000 abbiamo aperto il primo concorso web che si sappia, insomma, a livello dei festival italiani, e così insomma siamo arrivati alle soglie appunto di questo nuovo attuale dipendio, cercando appunto a questo punto di ripensarci un po', anche cambiando sede e date, ovviamente già dall'anno scorso, ma quest'anno diciamo lo spostamento topografico, geografico, come vogliamo chiamarlo, si è compiuto. Siamo integralmente a Garbatella, che è un quartiere che ci offre delle grandi opportunità, anche grazie al municipio ottavo, di lavorare anche oltre l'appuntamento annuale del festival sul territorio, quindi con Roma 3, che è dal 2000 nostro partner culturale da sempre, praticamente ininterrottamente, e il municipio è anche una realtà che si occupa di arte urbana, che è 999 Contemporary, che collabora all'evento sul muro di Berlino quest'anno nella nostra edizione, il 9 novembre, che è appunto il giorno dell'anniversario. Un artista della loro, diciamo così, scuderia, giovanissimo, ventenne, si chiama Jericho, dipingerà un muro davanti al Teatro Palladium, ispirato appunto a questa celebrazione, un muro che poi regaleremo al municipio ottavo a fine manifestazione. Stefano, in chiusura, soprattutto chiaramente per chi ci ascolta, qual è il senso di questo 2.2? Appunto abbiamo coniato questa nuova forma di definire la cadenza delle edizioni. Alla ventesima edizione abbiamo deciso di metterci un punto e andare a capo in qualche modo, no? Ma al di là delle battute, è un po' il segno di una continuità, ma soprattutto di una evoluzione ulteriore che va appunto oltre i cortometraggi ormai, verso nuove forme di storytelling audiovisivo. Infatti ci occuperemo anche di come il videogame e il cinema si stanno sempre più influenzando a livello di linguaggi audiovisivi e di tecnologie, per esempio la realtà virtuale, Oculus Rift, la realtà aumentata. Se ne parlerà sabato 8 con Ilaria Ravarino, è un amplissimo parterre di interventi molto specializzati, ma anche molto, molto interessanti per chiunque si occupi sia di cinema sia di videogame. Stefano, io ti ringrazio, ce l'abbiamo fatta, il telefono non è crollato miracolosamente, come sempre, per quanto riguarda il nostro festival. Allora ricordiamolo, Ambra alla Garbatella e Teatro Palladium qui a Roma, zona Garbatella, dal 7 all'11 novembre, Arcipelago 2.2. Stefano, un abbraccio, ingresso e alla prossima. Ingresso gratuito, chiaro. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie ancora. Ciao, grazie. Stefano Martina, direttore di Arcipelago 2.2, Festival di Cortometraggi e Nuove Immagini. Allora, riprendiamo con i documentari, con qualcosa che sta uscendo in sala. L'amministratore, che sarà a Roma a partire da oggi, giovedì 6 novembre, Vincenzo Marra, che ne è regista. Ben ritrovato, Vincenzo. Grazie a tutti. Allora, non ti dico come va perché già mi hai risposto prima. Senti, Vincenzo, presentato lo scorso anno al Festival di Roma, continua il tuo viaggio nella tua Napoli. E cos'è questo amministratore? Sì, è un film di questi documentari che io faccio dal 2000, ho fatto, se così si può dire, il quinto capitolo. E, l'idea era quella di entrare, cercare di entrare nelle case, in questo caso dei napoletani, ma non solo, e quindi mi venne un'idea di seguire un amministratore di condominio. Questi film documentari sono, se così si può dire, un pedinamento della realtà fatto cercando personaggi veri che possono posso seguire in libertà, e quindi ho trovato questo splendido amministratore di condominio a Napoli che lavora con lui e la sua famiglia, e ho seguito e intrecciato al montaggio quattro storie, dalla Napoli diciamo più ricca a quella molto popolare, e ne è uscito un affresco che, appunto, ripeto, è come protagonista, come sempre c'è Napoli, i suoi mondi, i suoi vari mondi, ma è anche un film sull'Italia di oggi per tutti i motivi, insomma. Senti, Vincenzo, ma è stato un incontro casuale o cercato? No, io, diciamo così, mi viene in mente sempre di trattare come se fosse una fetta di territorio, nel senso che ho fatto un film allo stadio, ho fatto un film in tribunale, ne ho fatto un altro in carcere, e questa volta l'idea era quella di entrare nelle case, per tutto quello che si dice, anche partendo dalla crisi economica che abbiamo. E quindi a quel punto ho detto amministratore di condominio, ho preso due persone, due collaboratori che mi facessero un vero e proprio censimento o casting degli amministratori di condominio, sì. E quindi ne abbiamo visti più di 70, una cosa così, su Napoli, cioè amministratori di condominio veri, con la pretesa, un po' anche il sogno, di fare un film verità in diretta, ecco. E quindi fino a quando non ci fosse stato questo incontro illuminante non si sarebbe potuto fare il film, ecco. Dopo tanti mesi di ricerca alla fine è arrivato questo incontro, di cui devo dire la verità sono felicissimo anche a livello umano di aver incontrato questa persona e di averla, tra virgolette, immortalata con la mia troupe in un film che secondo me, appunto, è una delle cose di cui sono più fiero e contento, nonostante poi è molto difficile farli vedere questi film così, è molto difficile produrli, però insomma a livello creativo ti ha molto soddisfatto. Sono molto contento. Sì, sì. Vincenzo, allora il tuo protagonista, hai detto, va dai palazzi benestanti alle case più popolari. Ecco, che realtà attraversa nella Napoli che ci hai mostrato? Ma insomma, attraversa una difficoltà che è per tutti, ripeto, non è un discorso solo su Napoli. C'è certo a Napoli la cosa straordinaria è l'umanità, è incredibile. Io ho girato tutto il mondo, quindi non lo dico solo da napoletano, lo dico perché ho girato tutto il mondo. Insomma, un'umanità incredibile, profonda, secolare, e questo rende le cose molto più, tra virgolette, cinematografiche. La realtà nello specifico è una realtà complicata, perché appunto noi, 70-80% dei cittadini italiani sono proprietari di case, e quindi quando entri nel luogo sacro, tra virgolette, cominci a capire, insomma, il problema in profondità di questo paese. E questo credo che esca nel film, in tanti momenti, dove poi alla fine, grazie a quella umanità di cui sopra, esce anche un linguaggio che spesso e volentieri strappa risate allo spettatore dall'inizio alla fine, ma è una risata che poi, vista con l'altro occhio, forse la scommessa è quello che dovrebbe far pensare, dovrebbe far riflettere molto. Senti, la differenza di ceto ha un peso notevole? Ma in una città come Napoli, come tutte le altre città, sicuramente molto forte. Insomma, ormai più si va avanti, e quella che a un certo punto la forbice era stata creata, c'è stato un periodo, no, negli anni scorsi, in cui si è creata una differenziazione, la forbice era un po' diminuita, adesso un'altra volta riallargata, cioè, questo è un discorso, ripeto, ma credo un planetario, non è solo a Napoli, in Italia. E c'è una differenza fortissima nei modi, negli sguardi, insomma, in tante piccole sfaccettature, molto molto interessante, perché poi il film, io ho toccato tra virgolette quattro quartieri che sono anche un po' simbolo, perché il primo quartiere, diciamo, non in ordine di montaggio, ma così in ordine geografico, la prima storia si svolge a Posillipo, che è il quartiere, diciamo, così più d'élite della città di Napoli, la seconda storia è al Vomero, che è un quartiere borghese, ma anche, diciamo, fisicamente che sta più in giù rispetto a Posillipo. Il terzo quartiere è la sanità, quindi il cuore di Napoli, una Napoli anche popolare, antica, millenaria, e il quarto è la periferia, è San Giovanni a Terizio. Quindi, insomma, c'è stata anche la fortuna di aver selezionato in queste storie girate quattro micro storie che avessero anche una geografia interessantissima. Ecco, per esempio, rispetto alla periferia, le problematiche che vengono subito alla mente sono quella dei, per esempio, della droga e dei rifiuti. Ecco, è una realtà sempre presente. Come viene vissuta? No, ma io ho raccontato il micromondo, che però quello poi diventa una possibilità incredibile per raccontare invece al contrario qualcosa di molto più allargato. Quindi ho raccontato la storia, sono quattro storie, ripeto, la prima di due fratelli di Posillipo che si fanno la lotta tra di loro per un appartamento, si parlano anche se sono molto facoltosi, con sorprese molto importanti. Poi è la storia di due vecchiette del Vomero che là si fanno la guerra pur vivendo nello stesso pianerottolo. Poi ho raccontato la storia di questo personaggio specie di veramente l'incarnazione di Guardia Filippo, sindaco del Rione Sanità, una specie di piccolo boffetto che a 80 anni sta ancora in quei vicoli, e controlla e dà una mano a questo amministratore, ma con una spero che, appunto, difficile spiegarlo a parole, ma non è l'equiparazione immediata camorra, no, non è quella roba là, è una cosa molto più antica e profonda. E poi queste due signore, mamma e figlia, una di 65 e l'altra di 80, che vivono alla periferia di Napoli con tanti problemi, insomma, che vengono raccontati nel film. Quindi non è un viaggio in fiesta, ma questi film documentari dedicati alla mia terra io li faccio cercando di partire le persone nell'umanità, nella sensibilità, in quella particella, come la chiamo io, così profonda, che ci contraddistingue e che ci regala, che regala allo spettatore, perché posso già parlare, insomma, nel senso che il film, appunto, è stato mostrato per la prima volta circa un anno fa, regala dei mondi incredibili. Non è l'inchiesta, non ci sono mai interviste fatte ai protagonisti, c'è il pegnamento della realtà. In questo suo girovagare per Napoli, diciamo così, fa da collante di queste quattro storie. Sì. Vincenzo arriva a Roma stasera, oggi la presentazione al Piccolo Cinema America a Trastevere, poi sarà la volta dell'Aquila, del nuovo Cinema Aquila, e poi del Detour. Ecco, come hai pensato questo piccolo tour romano, e come è stato poi l'incontro con questi ragazzi del Piccolo Cinema America, con tutta la vicenda che hanno vissuto, insomma, legata all'occupazione dello spazio accanto, e poi questo forno accanto alla sala che hanno trasformato in saletta proiezioni? Guarda, e questo io vado stasera, là, quindi non posso ancora dirtelo. Posso dirti che, insomma, un po' la tristezza, ma è anche la consapevolezza nel momento, ma già da quando li fai, che questo tipo di film hanno una vita difficile, insomma. Sì, sì. Io, questa è la cosa che a me dispiace di più, perché magari ascoltando molti commenti di persone, diciamo, più appassionate, più cinefile, se così si può dire, hanno poi dicono che, insomma, magari ti rimane di più, è arricchito di più una serata con uno di questi lavori che magari tante ore perdute dietro filmoni che magari non ti lasciano nulla. Questa però non è né una scusante né un pianto rispetto alla situazione, una constatazione della realtà. Per me ha molto senso provare a fare questi lavori, per me ha molto senso provare a farli vedere dove sia, e quindi benvengano piccole realtà che comunque possono essere due luoghi dove ci sono, anche in questo caso, per esempio quello di stasera, delle persone giovani che possono vedere un lavoro diverso fatto con pochi mezzi, ma che ti racconta un mondo che magari non si conosce. Sì, questo sì. È importante per me, è anche motivo di orgoglio. Bene. Vincenzo, credo che ci vedremo in sala. Va bene. Un abbraccio, a presto. Grazie a voi e a presto. Arrivederci. Ciao. Vincenzo Marra, regista del documentario L'Amministratore, in sala qui a Roma da oggi 6 novembre, tra Piccolo Cinema America, Nuovo Cinema Aquila e Cineclub Detour. E dopo un po' di tempo ritroviamo Stefano Doardi, regista del film Mancanza Inferno, che sarà al Nuovo Cinema Aquila il 10 novembre. Stefano, ci sei? Sì, sono qui. Oh, ben ritrovato. Come va? Grazie anche per me, molto bene, molto bene. Allora, Mancanza Inferno, un inferno per anime, per giovani anime, riguarda la città dell'Aquila del dopo terremoto. Dici un po', Stefano. Sì, direi che sì, il film è stato girato all'Aquila. Ho cercato di rappresentare un inferno contemporaneo con un approccio assolutamente non documentaristico, realistico. anzi direi abbastanza visionario, e questo aspetto è poi amplificato dalla presenza di Angelica Cavallari, che è un'attrice che interpreta un angelo ispirato alle elegie dionesi di Rilke, e attraverso la sua presenza il film prende sempre di più una sua dimensione appunto visionaria. Senti, come è nato tutto il progetto, Stefano? Sì, allora Mancanza è una trilogia, infatti io sto per girare, da fine novembre inizio a girare già l'episodio sul Purgatorio, è una trilogia su Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma prima di tutto è appunto il progetto Mancanza, che è un progetto attraverso il quale sto cercando di analizzare quello che è il vuoto che appartiene a tutti gli esseri umani, e quel tentativo di colmarlo che noi come esseri umani quotidianamente facciamo vivendo la vita. E quindi l'ho fatto, quindi questo progetto, proprio questo vuoto che è così importante, è diventato anche il mio vuoto come regista cineasta, e per questo è un lavoro di privazione, quindi per esempio è un lavoro senza sceneggiatura, per dirne una. Sì. È un lavoro che si incentra sulla possibilità per me come autore di utilizzare il dubbio e anche l'incertezza come possibilità per realizzare un lavoro fondamentalmente poi sul linguaggio del cinema. Senti, la scelta dell'Aquila? La scelta dell'Aquila assolutamente, perché l'Aquila purtroppo diventava, per mia esperienza, sono abruzzese, dopo il terremoto ho frequentato vari amici che insomma ho visto che quello che hanno subito, non tanto dal terremoto, che poi è un evento naturale al quale l'uomo non può fare nulla, ma è stata proprio la volontà di non ricostruire quel luogo, e questo ha creato dei traumi inevitabili negli abitanti che io ho rivisto in molti amici, e da lì mi sono accorto che gli abitanti dell'Aquila stavano e stanno vivendo un inferno, un vero inferno contemporaneo, e quindi diventavano purtroppo protagonisti ideali di questo film. Ecco, lì la cosa impressionante è che la vita continua sicuramente, ma tutto intorno ad un centro storico che, come dicevi te, è morto, non è stato ricostruito, ed è uno stato d'animo straziante quello che rivelano pian piano tutti i protagonisti. Sì, assolutamente, è uno stato d'animo straziante, io direi anche incivile, e per usare un termine vicino al mio film, infernale, perché comunque appunto questa negazione della possibilità anche di elaborare un lutto, un trauma, questa è stata negata, e questo è un aspetto comunque che io definisco comunque incivile rispetto a quello che è accaduto all'Aquila. Senti, com'è stata l'interazione con i protagonisti del tuo film? Li hai lasciati parlare? Hai dato loro indicazioni? Com'è andata? Come ha funzionato? Allora, come ti dicevo, il film non ha una sceneggiatura, quindi il mio approccio è stato quello di lavorare pochissime ore al giorno, in un periodo molto preciso della giornata, in un momento molto preciso della giornata, con la luce a cavallo, quindi alla ricerca dell'oscurità, partendo da un minimo di luce verso l'oscurità. E quotidianamente si analizzavano una serie di tematiche che venivano discusse e affrontate. La particolarità era che in pratica io ero l'unica camera in azione, la location era unica, dove erano i non professionisti, gli abitanti della città, e tutto quello che io perdevo non era ripetibile, quindi il film è fatto realmente di momenti unici che accadevano in quei momenti. E invece con l'attrice protagonista Angelica Vallari il lavoro è stato fatto al mattino, e anche con lei si è lavorato su una forte base di improvvisazione, dove quotidianamente invece si esploravano vari punti della città, e con un'interazione nello spazio e con lo spazio lei riusciva poi a mettere in scena questo personaggio completamente opposto, che appunto si può assolutamente definire un personaggio visionario, è completamente opposto alla dimensione realistica dei non professionisti. Stefano, a qualche anno dall'evento del terremoto, volevo chiederti quali sono le prospettive di queste persone rispetto alla loro città e del loro rapporto con la città. Ma allora, dalle notizie che ho io, so che c'è adesso un inizio di ricostruzione, però non è una vera ricostruzione, nel senso che si parla comunque di alcune piccole parti della città. Il problema dell'Aquila è che l'Aquila, per l'esperienza che ne ho io, è una città che aveva un centro storico vivissimo e vitalissimo anche a livello culturale, e questo non c'è più. Comunque ad oggi la situazione non è cambiata, purtroppo. Senti, allora il 10 come funziona il nuovo Cinema Aquila? Ci sarà una data secca o una programmazione? No, sono inizialmente iniziamo con 3 proiezioni, 10, 11, 12 alle 21:30. Sì. Io sarò presente tutte e 3 le serate anche insieme all'attrice Angelique, e poi il primo giorno ci saranno anche alcuni degli attori non professionisti aquilani, c'è il coproduttore Gianluca Stewart, la prima giornata, e poi a seguire appunto queste altre 2 programmazioni, e poi da lì vedremo, perché comunque sappiamo tutti che è molto difficile in Italia la distribuzione di un film indipendente come questo. Stefano, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Stefano Doardi, regista del film Mancanza Inferno, a partire dal 10 novembre, 10, 11 e 12 al nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Ritroviamo, sì, siamo in diretta, Maurizio Zaccaro, collaboratore alla regia del film Torneranno i Prati di Ermanno Olmi, in uscita in sala oggi giovedì 6 novembre. Maurizio, ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie dell'attenzione. Ci eravamo sentiti, sono andato a ricontrollare qualche anno fa per Piccolo, se non sbaglio. Ah sì, documentario sul Piccolo Teatro di Milano, certo. Sì. Prima Guerra Mondiale, vista nella trincea e dalla trincea, una notte, neve, silenzio e un nemico che non si vede praticamente mai. Sì, è un nemico che non si vede, però io, sai, posso parlare giusto di quello che ho fatto. Poi per quanto riguarda la filosofia del film, un film di Ermanno Olmi, non è, sì, per sì, essere corretti, certo. Però è stata una lunga lavorazione che è durata 2 mesi e mezzo sull'altro piano di Asiago, con 3 set abbastanza particolari e complessi, e di conseguenza ecco perché c'è stato il mio intervento, perché era un film concepito e poi realizzato interamente a 1800 metri d'altezza. Lavoravamo dalle 4 del pomeriggio alle 4 di notte, quindi ti puoi immaginare con tutto quello che era di complicato per Ermanno poi raggiungere il set, ecco. Sì. Senti, come sei arrivato al film? Ah, al film, niente, mi è stato chiesto, sai, la mia collaborazione con Ermanno è una collaborazione più che trentennale, perché sì, abbiamo cominciato tantissimi anni fa ed è sempre continuata poi nel tempo, e abbiamo anche realizzato delle cose insieme, fra le quali quest'ultimo film. Mi è stato proprio chiesto di dare una mano in amicizia al set, quindi facendo un po' il regista del set, ecco, oppure collaboratore alla regia, ecco. Sì. Ma è una dimensione molto, come ti posso dire, intima e particolare, con Olmi, col quale basta un'occhiata per intenderci dopo tantissimi anni di lavoro. Certo. Volevo chiederti con quali idee di partenza avevi cominciato rispetto proprio all'idea che uno ha del primo conflitto mondiale, e cosa secondo te emerge fortemente nella pellicola. Ma io ti posso riportare una frase che ci siamo sentiti dire, insomma, parlando con Ermanno, una frase molto d'effetto, che i nemici di questi ragazzi non stavano davanti ma stavano dietro, che di conseguenza su tanti monumenti dei comandanti della prima guerra mondiale che si celebrano in giro per le piazze d'Italia andrebbe scritto sotto criminali di guerra, sì, e non eroi di guerra. Questa era un po' la base di tutto il discorso, è una frase non mia, è una frase di Olmi, chiaramente, no? Sì. Ecco, e da lì poi siamo partiti lavorando proprio sulla solitudine, sulla solidarietà uno con l'altro di questi ragazzi, che sono tutti ragazzi giovanissimi che stanno su una trincea e vengono mandati proprio per ordini assurdi allo sbaraglio ad essere impallinati dai cecchini dall'altra parte, che erano altrettanto giovani come loro, che però avevano gli ordini di fare quello che dovevano fare. Quindi, sai, quando due ragazzi di 18-20 anni si sparano uno con l'altro, difficilmente poi entrambi capiscono del motivo per quale si sparano. Ma questo non è della prima guerra mondiale, è un problema di tutte le guerre del mondo. Quindi, per tanti prati, non è uno dei tanti film contro la guerra, è un film sulla guerra fatto in questo modo. E quindi è un film che va, come ti posso dire, per quello che ho visto, per come poi ho visto il film realizzato, e sono orgoglioso di averci fatto parte, è semplicemente vedere una figura, una persona, un regista di 83 anni che improvvisamente ti porta, ti prende per mano e ti porta a valicare i confini stessi del cinema, perché questo è Tornerò a Mitrate, è un modo nuovo di raccontare una storia, è un modo molto personale, ed è, tu ti rendi conto che vengono con questo film valicate proprio le fonti narrative, no? E quindi spero che il pubblico capisca questo senso di innovazione che porta con sé un film che è altrettanto spettacolare, come, insomma, come deve essere, girato oltretutto magnificamente da Fabio Olmi, che è il direttore della fotografia, che è una fotografia sontuosa, è una fotografia che lascerà il segno nei prossimi mesi. Maurizio, come hai vissuto rispetto, per esempio, cioè hai fatto solo esclusivamente lavoro di set o hai ti sei anche documentato rispetto a quello che andavate a raccontare? Ma sai, documentarsi è d'obbligo. Poi affrontare un set come quello così importante di un film di Olmi senza sapere, è chiaro che avevo letto un libro che non avevo mai letto prima, che era appunto il diario di Gadda, il diario di Trincea. Insomma, sai che Gadda è stato tutto volontario, perché Gadda è stato un volontario, non era uno del popolo, diciamo, che andava a fare la guerra perché l'avevano chiamato a fare la guerra, era uno dei tanti che si era reso volontario a fare la guerra e dopo ha capito che era un errore l'essere lì. Ecco, quindi leggendo quel libro che è molto, come ti posso dire, sanguigno, molto vero, certo, visto da un altro punto di vista, visto da un comandante, perché Gadda non era un soldato semplice, era un ufficiale, però ti rendi conto che al tempo stesso scattano anche in queste persone dei ragionamenti e delle riflessioni che ti portano, che lo portano poi sul fronte opposto, cioè non sul fronte austriaco, ma sul fronte suo personale, da interventista a non violento. Una delle riflessioni che sta viaggiando in questo momento è che l'Italia è l'unico paese in cui non c'è stata una riabilitazione di tutti quei ragazzi che sono stati si sono rifiutati di continuare quell'assurda guerra, oppure sono stati passati per le armi. C'è il caso abbastanza noto di quei quattro alpini che avevano che insistevano che gli attacchi alle trincee nemiche andavano fatti per esempio di notte e non di giorno, perché evitando così anche una carneficina, e sono stati fucilati. Insomma, c'è tutto un mondo di vittime per stessa mano dei soldati italiani che non è stato mai riconosciuto. Ma infatti il film racconta proprio questo, sì, sì, il film racconta proprio, il film parte con l'arrivo di un altro ufficiale, un maggiore, che porta degli ordini assurdi che vanno eseguiti entro e non oltre 25 minuti dal suo arrivo, e di conseguenza si prende avvio nel film una sorta di, come ti posso dire, dramma di giallo, perché al tempo stesso tu sai che questo ordine è un ordine, come ti posso dire, assurdo, e però insomma però la gente lo deve eseguire. È come ti posso citare un'altra bellissima sequenza di un altro film altrettanto bello, che è quello di Rosi, Uomini Contro, no? Sì, dove mandano quei soldati con quelle armature contro le trincee nemiche. Ecco, a quel punto vedi che poi dopo tutte le prime confluiscono una nell'altra e si sviluppano in un unico discorso che viene portato avanti dai maestri del cinema italiano, e Olmi è quello che ha fatto ultimamente, anche se è stato un film non nato proprio dall'idea di Olmi, ma proposto ad Olmi nell'ambito delle commemorazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Quindi anche lui dice sì, quando faccio un film di solito scatta un innamoramento, no? Un preludio, una cosa che ti porta a raccontare la storia in modo tuo, viscerale. In questo caso così non è successo, è successo semplicemente ho realizzato un film su proposta. Sono due cose diverse che però portano ad un ottimo risultato, perché Torneranno i Prati è un film imponente dal punto di vista, anche se perché non è che dura 80 minuti, e di conseguenza quando tu finisci il film sei lì che forse ne vorresti vedere ancora. Sì, forse sì. No, non lo so, però la mia sensazione quando l'ho visto la prima volta, ho detto peccato che dopo 80 minuti, 6 minuti, sono andato sul discorso con Olmi, ma la risposta è stata esemplare. Ladri di biciclette dura 75 minuti, ha vinto l'Oscar. Sì. Capisce? Sì. E comunque, ecco, come dicevi tu giustamente, nonostante sia stato un film su commissione, ha toccato il tema della guerra nel modo in cui Olmi lo ha voluto toccare, e su questo non ci piove, insomma. Sì, ha raccontato in modo nuovo, in modo a mio avviso esemplare, uno spaccato proprio di, che poi si ispira a fatti reali, si ispira a, anche a racconti di Roberto, a molte cose realmente accadute intorno alla mia età, che non ci sono storie di fantasia, ma storie che Ermanno ha, come ti posso dire, fatto convogliare nel film attraverso fonti diverse. E questo è anche il pregio del film stesso, e quindi poi gli attori sono bravissimi tutti, insomma, sono calati in questa realtà. La trincea è una trincea veramente costruita sul posto, lunga più di 700 metri, e la vedi tutta nel film, vedi tutto il lavoro che è stato fatto durante l'estate per la costruzione della scenografia di Giuseppe Pierrotta. E poi dopodiché ha cominciato a medicare, ed è chiaro che si è fatto d'estate, poi alla fine è scomparso quasi sotto 5 metri di neve, perché è stato un inverno molto nevoso quest'anno. Sì. Senti Maurizio, in quante copie esce? Esce in 100 copie in tutte le sale d'Italia, e io mi auguro che queste 100 copie siano ben viste e ben sfruttate, perché vedere un film e vederlo magari passare in televisione, poi su Sky o dove passerà, io non lo so, o sulla Rai, è sempre un po' svilente rispetto alla magnificenza del film, visto addirittura su schermi che hanno la possibilità di proiettarlo in 4K, perché il film è stato girato originariamente in pellicola, e questo è un altro discorso molto lungo, però viene proiettato in certe sale, tipo il Sacco di Roma è proiettato in 4K, Melz è proiettato in 4K, in tanti posti ci sono i proiettori oggi in 4K, che è l'ultra digital, no? Sì. E di conseguenza la definizione è totale e assoluta, anche quella fa il suo colpo, perché sai, quando tu vedi tutte queste notti perfettamente nitide, di solito la notte nel cinema è sempre un po', come ti posso dire, un po' mossa dai rumori, nel senso delle righe che si vedono quando i neri non sono neri, no? Sì. E invece qui è perfetto, e il paesaggio un suo contributo notevole al film, perché è un paesaggio più unico che raro, appunto perché ha girato in notti vere. Poi dopo ci sono anche delle notti fatte come che si chiama in certo tecnico, notte americane, chiaramente, perché sui totali, sai, è un problema illuminare una valle intera, però diciamo è talmente vasto l'ambiente in cui è stato girato che uno quando vede il film se ne rende conto, insomma, per citare, come quando noi andavamo sul set, era come, citando una battuta di un recente spettacolo di Bergonzone, abbiamo fatto un voto di vastità nel senso che era proprio una roba che tu andavi sul set e diventavi proprio una formica di fronte a quello che ti trovavi di fronte. E così lavoravamo, ecco, lavoravamo 11 ore al giorno in queste condizioni, ma si è detto, si vede anche la sofferenza degli attori, perché sai, noi eravamo vestiti come gli astronauti, con tutte le protezioni, gli attori certo avevano le loro protezioni, no? I piedi li avevano al freddo, e questo rende ancora più vera la loro interpretazione, lo vedi dai fiati, lo vedi dal freddo che esce, dalle condense che esce dalle labbra con ogni battuta, lo vedi proprio. Infatti c'è una battuta molto bella di Santa Maria che dice: quei piedi gelati ma a cuore aperto verso Ermanno, perché ci indicava ogni sfumatura di recitazione. Io credo che per Santa Maria, Claudio e tutti gli altri attori del film sia stata un'esperienza indimenticabile, cioè, non lo so se è il film più bello della loro vita, della loro carriera, perché ne faranno tantissimi altri ancora, ma questo sicuramente gli resterà nel cuore. Maurizio, in chiusura volevo chiederti se hai avuto impressioni, commenti già di questo lavoro da parte di chi l'ha visto. Sì, è stata una proiezione, l'altra sera eravamo tutti a Roma, la presenza del capo dello Stato, di Giorgio Napolitano, e tutti poi quelli che erano i ministri, insomma, per la proiezione ufficiale fatta alla Sala della Conciliazione, che è una sala, l'auditorium, no? Che è una sala di 1700 posti, e vedere 1700 posti strapieni, insomma, fa il suo effetto, perché non volavano mosca, e alla fine del film i commenti, insomma, i commenti erano notevoli, non c'era persona che era un film imponente, importante, capolavoro, poi dopo ognuno la pensa come vuole. Magari chi va al cinema e non gli piace, per carità di Dio, questo è, è ovvio che può succedere, non si può fare un film pensando di piacere a tutti, ci sarà pur qualcuno che poi dirà ah, ma non mi ha convinto, è ovvio, cioè tutte le cose sono suscettibili del giudizio di altre persone, perché facciamo il nostro lavoro, no? Se fossimo sicuri di fare sempre centro, figurati, anche gli americani stessi non fanno questi ragionamenti, poi dopo si appellano invece ad altre cose che possono attirare il pubblico. Noi per attirare il pubblico nelle sale abbiamo dalla nostra parte la proposta che facciamo in questi giorni con Pomerani Prati, la qualità del nostro lavoro. È un film privo di effetti speciali, anche questo è importante, perché non è stato aggiunto in CGI, cioè delle componenti in digitale che si aggiungono quando si fanno di questi film di guerra, no? Che dopo si aggiunge, vuoi quella nuvola in cielo, vuoi quell'esplosione, le esplosioni sono tutte reali, sono devastanti, perché erano anche quelle fatte a regola da grandi maestri di questo lavoro, che sono gli artificieri, per esempio i soldati della trincea sono presi sul posto e quindi sono credibili. Ecco, se c'è una qualità in un film di Olmi, che non c'è niente di posticcio, e di conseguenza è un valore aggiunto, no? È un suo modo di raccontare il cinema. Però ti ripeto, quello che ti ho detto all'inizio, la cosa più particolare del film è proprio questa, che non, cioè è stata valicata una frontiera narrativa, torneranno i Prati, alla quale si ispireranno molte persone da qui in poi, spero. Bene, allora da oggi nelle sale. Maurizio, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie, alla prossima, grazie e auguri a tutti a voi di radio. Ciao. Ciao, ciao. Maurizio Zaccaro, collaboratore alla regia del film Torneranno i Prati, in uscita in sala oggi giovedì 6 novembre. Beh, avremmo dovuto sentire Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, per parlare del circuito diffuso e l'uscita in sala del film restaurato Gioventù Bruciata. Il circuito diffuso appunto per la proiezione dei film restaurati della Cineteca di Bologna qui a Roma, ossia il piccolo cinema America, il cinema Alcazar e se non sbaglio il Zacher, però così non è, e qua magari ne parleremo la settimana prossima sempre con Farinelli. È tutto per Visionari di questa settimana. Per tutte le informazioni vi rimando al sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari. Trovate tutte le informazioni. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.